You've got to give a little. Indovina chi viene a cena. Take a little. Di Valentina Furlanetto. That's the glory of love. Oggi è stato uno strano giorno. Credo anzi di non esagerare affermando che è stato un giorno veramente straordinario. Mi è stato gentilmente spiegato da mia figlia che aveva intenzione di sposarsi e che il suo promesso era un giovane uomo che non avevo mai visto e oltretutto negro. Beh, mi pare giusto riconoscere che ho reagito a questa notizia nello stesso modo in cui avrebbe reagito qualunque padre normale, a meno che la figlia non fosse negra anche lei. Chiunque potrebbe obiettare, non a vanvera, contro questo vostro matrimonio, ma voi siete due esseri perfetti. Che vi siete innamorati e che purtroppo avete una diversa pigmentazione. E adesso io credo che qualunque obiezione possa fare un bastardo contro la vostra intenzione di sposarvi. Solo una cosa ci sarebbe di peggio. E cioè che voi due, sapendo quello che fate, sapendo ciò che vi aspetta e sapendo quello che sentite, non vi sposaste. Beh, Tilly, che cavolo aspettiamo a mangiare? Buonasera a tutti da Valentina Furlanetto, benvenuti a questo appuntamento con Indovina chi viene a cena, versione serale, cambiato l'orario ma non lo spirito della trasmissione che ha sempre come ospite uno o più italiani di origine straniera. Questa sera parliamo anche di cinema, i temi del film che avete sentito all'inizio, un film degli anni 60 in bianco e nero sul pregiudizio razziale, l'integrazione fra culture in America restano attuali, ma noi pensiamo che si possano superare, come a tavola superiamo a volte certe nostre avversioni. Può capitare di avere pregiudizio negativo verso un cibo e poi capire di non poterne fare a meno. Insomma, a tavola come nella società, nella vita i gusti cambiano, cambia anche questa Italia. E quindi raccontiamo i nuovi italiani che sono sempre più anche nelle sale cinematografiche. Stasera parliamo proprio di cinema. Prima di presentare i nostri ospiti, vi faccio sentire il trailer di un film che è stato molto applaudito al Festival del Cinema di Venezia proprio pochi settimane fa e che è nelle sale in questi giorni. E sentiamo allora. Per andare fino alla fermata puoi usare questa, sai? È un po' vecchia ma fila via bene. Grazie. Mi ha chiamato il preside, mi ha detto che non c'eri. Se c'era tuo padre ti avrebbe già dato due sberle. Fallo tu, visto che lui non può. Sacha. Adesso ne usa questo. Hanno lo stesso odore. Le cose che hanno lo stesso odore devono stare insieme. Michele! Ma è vero che sei arrivato in barca? Sì. Com'era il mare? Faceva paura. Ma se l'hai anche fatto tu? È bello qua, tutto verde. Quando noi mi piacerà tutto bianco, vedrai. La prima neve è il titolo di questo film in sala in questi giorni, è quella che tutti a valle aspettano, la prima neve, è quella che trasforma i colori, il paesaggio del Trentino e Dani, il protagonista di questo film, non ha mai visto la neve. Dani è nato in Togo, è arrivato in Italia in fuga da una guerra e ora si trova in Trentino con una figlia di un anno, ha i suoi segreti, così come ci sono dei segreti anche in questa comunità. Questo è quello che a grandi linee racconta questo film. Noi abbiamo il piacere di avere il regista della Prima Neve, Andrea Segre. Buonasera. Buonasera a voi. Grazie, benvenuto. E poi l'interprete di questo ragazzo del Togo che è in Italia, Jean-Christophe Folli. Buonasera. Buonasera. Grazie anche lei di essere con noi. Una puntata un po' particolare quella di oggi. Di solito abbiamo un ospite straniero che vive in Italia oppure è nato in Italia ma di origini straniere, per cercare di capire un po' come l'Italia sta cambiando, come ci stiamo così trasformando. Questa sera partiamo come sempre da uno spunto a tavola, perché volevo chiedere a voi, a Andrea Segre, a Jean-Christophe sua follia. Qual è il piatto che vi viene in mente quando parlate di voi stessi, ma anche di questo film, Andrea Segre? Beh, più che un piatto, direi è una cosa molto specifica, che è il miele. Il miele è il gusto, l'odore che tiene un po' unita tutta la storia e che offre anche un po' la metafora della storia, nel momento in cui il vecchio nonno di Michele, un apicoltore di montagna, cerca di insegnare a Danì, che sa lavorare il legno, come aggiustare le arnie, e prima di farlo fa sentire a lui l'odore del miele e l'odore del legno, e dice che il legno e il miele sono due materie molto diverse, ma hanno lo stesso odore, e le cose che hanno lo stesso odore devono stare insieme. E questa frase di un vecchio apicoltore, assaggiando il miele, sentendone l'odore e il gusto, è quella che poi in qualche modo accompagna tutta l'avventura di Danì e di Michele durante il film. Lei, tra l'altro, è un regista che ha lavorato spesso su questo tema della marginalità delle etnie, dei popoli, delle culture, no? È un tema che la affascina. Lei è veneto di origine? Io sì, sono cresciuto in una terra di immigrazione. Sì, sono cresciuto in un territorio che ha visto incrociare nelle stesse famiglie, quasi nella stessa generazione, le due direzioni, no? Di migrazione, l'immigrazione e l'immigrazione. Oggi in una famiglia veneta puoi trovare il padre il padre o il nonno che è stato in Australia o in Germania e che è tornato indietro, e il figlio che dà lavoro a immigrati africani o asiatici. E oggi, anzi, addirittura siamo alla terza generazione in cui ci sono i ragazzi più giovani che iniziano a lavorare per gli stranieri. Molti ragazzi veneti iniziano a lavorare per imprenditori cinesi, per imprenditori di altri luoghi che investono in Veneto. È una terra che si sta trasformando. È molto interessante. Eh sì, è un intreccio interessante, e che mi pare di capire è proprio una fonte di ispirazione della sua filmografia. Ma guardi, è il contrario. Io ho iniziato a fare cinema perché ho voluto capire, ascoltare queste storie. Non ho studiato cinema, ho iniziato a viaggiare con i migranti e a viaggiare nel mio territorio per capire che storie c'erano, e ho scoperto che era importante riuscire a raccontarle ad una parte della popolazione che non le sapeva, non le conosceva, e ho scoperto che il cinema funzionava bene per raccontarle. Jean-Christophe Folli, lei interpreta questo giovane del Togo, anche lei viene dal Togo e vive in Francia, è nato in Francia, no? Sì, sono nato in Francia, ma i miei genitori sono di Togo. E qual è il piatto che le ricorda un po' la sua identità, la sua infanzia? La mia madre faceva un cibo con riso e pollo a volte. Spesso mangiavamo pane con cioccolate. Lei si è mai sentito a disagio per la sua pelle o per la sua origine africana, e ha la sensazione, avendo lavorato anche in Italia, che ci siano queste differenze? Ma devo dire che ho pensato molto a questa differenza tra Italia e Francia, ma è strano perché in Francia siamo qua da tanto tempo, ma c'è ancora un razzismo che si vede e che si sente, però puoi vedere neri o arabi che lavorano come bianchi. Invece in Italia sento che è ancora un po' difficile di vedere neri che lavorano, non so, in ufficio o... La prima neve, tra l'altro, ha un padrino d'eccezione, che è l'attore e autore teatrale veneto Marco Paolini, che in un'occasione pubblica qualche tempo fa ha parlato proprio così di questo Italia, di questo Veneto che cambia. Secondo me il problema non è l'arrivo delle nuove persone nelle nostre città, il problema è che noi ce ne siamo andati dalle nostre città. Perché siete chiusi in casa e per la strada si sente più parlare altre lingue che la vostra, per cui poi a sentirsi stranieri siamo noi. Quindi credo che il problema più grande sia di rieducarci alla strada e a mettere il naso fuori di noi stessi. Facendolo si prende un po' meno paura, dopo il resto diventa possibile. You've got to give a little. Indovina chi viene a cena. Give a little, take just a little. Let your poor heart bleed a little, but baby, that's the glory of love. Ed è questa stagione, Indovina chi viene a cena, propone in apertura della seconda parte diverse versioni della canzone del film da cui traiamo spunto, reinterpretata da diversi autori con sonorità diverse nel tempo. Siamo con Andrea Segre, regista della Prima Neve, in questi giorni al cinema, e con l'interprete Jean-Christophe Folli per parlare di questo bel film molto applaudito, devo dire, a Venezia. Andrea Segre, rispetto al film precedente Io sono lì, che cosa c'è? È sempre un'esplorazione di un incontro di culture diverse, no? Però mi sembra che ci sia meno un razzismo strisciante in quest'ultima opera, nei personaggi, nella comunità, no? Sì, in qualche modo non abbiamo focalizzato sul tema dell'accettazione o non accettazione, delle tensioni, delle difficoltà che ci possono essere, ma abbiamo voluto raccontare, quasi senza raccontarlo, cioè lasciandolo un po' per scontato, quelle situazioni in cui la presenza dello straniero è semplicemente la presenza di una persona con cui costruisci una relazione. Dani nel film è un artista del legno che sa usare il legno e che quindi è utile al vecchio Pietro falegname, apicoltore, che ha bisogno di un assistente, ed è soprattutto un padre, ed è un padre che non riesce ad essere padre, che incontra questo invece figlio che non ha più il padre, questo figlio che non può più essere figlio, e quindi il suo essere straniero diventa diciamo un elemento non centrale nelle relazioni che si costruiscono, negli incontri che si costruiscono. Mentre io solo lì, la donna cinese, il suo essere cinese era centrale nel film. Era centrale, ma perché, sai, la donna cinese arriva d'improvviso dentro ad un luogo molto specifico, che è un'osteria per pescatori, e quindi proprio l'attenzione del suo essere altro è centrale in chi si ritrova questo cambiamento così forte di fronte, abbastanza improvviso. E invece in questo caso Dani arriva in quella famiglia perché c'è una necessità di averlo in quella famiglia, no? Di averlo a lavorare in quella famiglia, e poi inizia a conoscere l'altra persona, il bambino, iniziano a legare nel momento in cui il bambino capisce che ha di fronte un padre che ha una bambina che non ha la madre, e quindi unisce il dolore di quel padre al suo dolore, come i bambini fanno, no? Cioè cercano vecchio un riferimento, e in questo caso lo trova in una persona molto altra, ma che però è esattamente ciò di cui in fondo lui ha bisogno in quel momento. Sentiamo allora proprio un pezzo di Io sono lì. Corretto, Brugna. È venuta dall'Oriente per servire la mia gente. Ma tu sei un vero poeta? Samurai! E questo è mio figlio, è in Cina. Auguri! Vedi quella? È l'unica casa che ho. La laguna di Io sono lì lascia il posto al bosco, agli alberi del Trentino in questo film La prima neve. Jean-Christophe Folli, qual è stata la maggiore difficoltà nel girare questo film? Adesso la sente anche il regista, quindi non mi dirà la cosa che davvero l'ha messa in difficoltà, ma ci provi. No, la cosa più difficile per me era il freddo nel film. Faceva molto freddo, e è stato molto difficile per me a volte, però non so, e poi all'inizio, come non parlavo italiano, era un po' difficile di capire tutto, ma ad un certo punto la mia testa ha fatto, non so, un rumore e ho iniziato a parlare italiano, e quindi no, è stato difficile, è stato molto facile, ma lo dico anche quando Andrea non sente. Ci è accompagnato questo film da una bellissima, devo dire, colonna sonora di un gruppo, di una formazione veneta, La Piccola Bottega Balazzar, che io non conoscevo, premio Tenco 2011, veramente bravissimi. Sentiamo allora un loro brano. Da Cima a Ortigara, a Tre Porte, dai rami del Po alle piere del Pelmo, dove i dise se senta il Signor. E mi go cerca e vago ancora, mi go cerca e vago ancora. Ho scelto questa canzone anche se non è riferita al film, perché non so se si capisce dal dialetto veneto, che dice io ho cercato e vago ancora, quindi mi sembrava adatta a questo tema che noi raccontiamo in queste nostre puntate. La Prima Neve, tra l'altro, è un film in cui, diciamo, gli aspetti positivi prevalgono nell'incontro fra le culture. Ecco, voglio dire, ci sono comunque delle situazioni ancora di forti tensioni, di rigurgiti di situazioni anche dolorose come queste, che però stanno a significare di culture che non si integrano, tutto sommato. Gli scontri di questo tipo sono la stragrande minoranza, però sono quelli che fanno notizia. La stragrande maggioranza sono invece le relazioni normali che non fanno notizia, le relazioni che fanno parte della vita quotidiana ormai di tutte le famiglie. Ci sono di sicuro almeno 4 milioni e mezzo di cittadini di origine straniera in Italia, diciamo che aggiungendo quelli non ufficiali si arriva almeno a 5 milioni e mezzo. Di questi una stragrande maggioranza ha a che fare tutti i giorni con famiglie italiane, con luoghi di lavoro italiani, con scuole italiane, con luoghi di gioco dei bambini italiani, e quelle non fanno notizia. Migo cerca e vago ancora. Oppure foschia che se desfa nel buio de un sole che se sfoga, coi boce che tase, vardando e barene, dai macchine ingrumae sora il ponte. Io credo che il cinema, l'arte, il teatro abbiano un compito molto importante nel raccontare quelle storie che permettono di costruire un mondo migliore, insomma, e la costruzione di un mondo migliore passa attraverso queste relazioni di normalità e non quelle attraverso il dare megafono agli scontri. Dopodiché certamente le ingiustizie, le denunce fanno parte di gran parte del mio cinema e hanno a che fare con quella parte peggiore del razzismo, che è quello alimentato da chi lo fa per interessi demagogici. Dopodiché il mio film, se posso aggiungere l'ultima cosa, racconta di una persona, racconta sì di un incontro, di un'integrazione che funziona, tutto quello che vogliamo. Dopodiché Dani nel film è un cittadino di una metropoli africana che si ritrova in un piccolo paesino di montagna, cosa che non avrebbe mai pensato in vita sua, e il suo sogno è andarsene da lì, è andare a arrivare a Parigi, in una grande capitale, perché quello era il suo scopo di vita. E quindi è in attesa, è in passaggio, e in questo passaggio incontra un pezzo di Italia piccola e provinciale che però gli riesce a dare un pezzo di cuore, insomma. Lo so, ti tradirò per lei che prepara un caffè. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. quello che è interessante nel personaggio di Danì e nei personaggi reali a cui Danì è ispirato, personaggi reali che tra l'altro sono anche nel film e che Jean-Christophe ha conosciuto per costruire il personaggio, è che noi li disegniamo, no, sempre come poveretti disperati che arrivano dall'Africa, che oddio come faranno a sopravvivere, forse bisogna aiutarli o forse bisogna respingerli, e invece la maggior parte delle volte sono cittadini appunto di grandi città che magari hanno studiato all'università, che magari hanno studiato anche lingue, parlano benissimo inglese e francese, e si ritrovano in paesini dove nessuno parla con loro in inglese e in francese e dove il loro confronto è con invece una vita, una popolazione ben diversa a livello di socialità e anche di interessi culturali, e questo non lo si sa, non viene raccontato, ma sono la gran parte dei ragazzi africani che arrivano e che attraversano l'Italia in altre direzioni. L'abbiamo detto anche nelle altre puntate, molto spesso sono cervelli in fuga e che noi stentiamo a considerarli così, no? Con questa etichetta che diamo magari agli italiani che vanno altrove, e stentiamo a riconoscere questi migranti come dei cervelli in fuga, quali sono. Jean-Christophe Folli, diceva Andrea Segre che lei ha conosciuto e frequentato e probabilmente ha avuto colloqui con alcuni migranti per capire un po', per entrare nel personaggio. Sì, ho passato tanto tempo con loro, specialmente con Arona, che mi ha un po' spiegato la sua storia, ma il fatto di essere, non so, a Pergine, questa città dove faceva freddo, a Pergine in Trentino, nella loro casa, a mangiare, come mi hai chiesto, mangiare un cibo africano, ascoltare la musica africana, mi ha fatto molto bene. Grazie, io vi ringrazio, la puntata termina qui, ringrazio i nostri ospiti, Andrea Segre, regista della Prima Neve in questi giorni ai cinema italiani, e l'interprete Jean-Christophe Folli di questo bel film italiano che è andato a Venezia e che ora potete vedere al cinema. Mi trovate anche su Twitter @Valfurla, trovate le ricette sulla pagina del programma all'interno del sito internet di Radio 24. Buon appetito a tutti, buona serata, e ricordate, a tavola come nella vita i gusti cambiano. You've got to give a little, that's the glory of love.